Salva Danaio con Valentina Furlanetto. Buona giornata a tutti da Valentina Furlanetto. Una ricerca di altro consumo li ha definiti quelli della notte per segnalare ai consumatori che tra poche settimane, dal 1° di luglio, dovranno districarsi fra tariffe orarie diverse per i consumi elettrici. Di cosa si tratta? Della tariffa bioraria che è stata prevista dall'Autorità per l'Energia e prevede appunto prezzi diversi per l'elettricità a seconda del momento del consumo. Un prezzo più alto per i consumi elettrici nella fascia di punta dalle 8 alle 19 dal lunedì al venerdì, un prezzo più basso per i consumi della notte, quindi dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e in più del sabato, della domenica e dei festivi. Ma prima di parlare di tutto ciò, e ci faremo aiutare chiaramente con alcuni ospiti che sono con noi e con voi, se volete mandarci delle domande al 349 238 6666 oppure chiamarci al numero verde 800 24 00 24, parliamo, dicevo prima, di parlare della fascia bioraria, parliamo delle borse. Borse che questa mattina avevano innescato la marcia positiva dopo 5 sedute consecutive positive. Piazza Affari aveva aperto ancora una volta con il segno più, poi a metà mattinata ha girato in negativo. Si mantengono invece positivi gli altri mercati in Europa, sulla scia anche della chiusura con il segno più a Wall Street e poi anche a Tokyo. Parigi più 0,35%, mentre Francoforte guadagna lo 0,15%, Londra più 0,36%, dicevamo Milano negativa, Piazza Affari ha ceduto prima quasi mezzo punto percentuale, ora è tornata intorno alla parità, il FTSE MIB cede lo 0,05%, il FTSE All Share lo 0,06%. E sui, per quanto riguarda i titoli a maggiore capitalizzazione del mercato milanese, segnaliamo il ribasso di Mediaset a meno 2,55%, la peggiore del listino dopo giornate però in cui il titolo è andato molto bene, e questo dopo che ieri il Tribunale Europeo ha respinto il ricorso di Mediaset contro la decisione della Commissione Europea che imponeva all'Italia di recuperare l'aiuto di Stato concesso nel 2004 per l'acquisto di decoder digitali terrestri. E per quanto riguarda gli altri titoli negativi, pesante anche Pirelli quest'oggi con un calo di 2 punti percentuali, Autogrill segue a ruota meno 1,76, poi ST Microelectronics meno 1,46%, contrastati i bancari, Unicredit positiva più 0,31%, anche la Banco Popolare di Milano più 0,6%, il Monte dei Paschi intorno alla parità, Intesa cede lo 0,02%, il Banco Popolare lo 0,6%, UBI lo 0,8%. Positivi invece A2A, la regina del listino milanese, più 1,49%, gli assicurativi Fondiaria Sai più 1,41%, Mediolanum più 1,38%, poi Fiat invece in flessione meno 0,43%, Telecom in flessione meno 0,05%, Saipem intorno alla parità, Eni positiva più 0,37%, Enel più 0,38%. Sul mercato dei cambi, per chiudere questa pagina di dati finanziari, l'euro è quotato a 1,22,92 sul biglietto verde. Ma torniamo al tema di oggi, che se ci avete seguito dall'inizio di Salva Danaio sapete che è la tariffa bioraria dei consumi elettrici. Per parlarne abbiamo con noi, e ho il piacere di presentarvi alcuni ospiti, Roberto Malamam, direttore generale dell'Autorità dell'Energia Elettrica e Gas. Buongiorno. Buongiorno a voi. E poi abbiamo qui con noi un esperto tariffe di altro consumo, Paolo Cazzaniga. Buongiorno. Buongiorno. Allora, grazie a entrambi per essere qui e rispondere alle domande che gli ascoltatori vorranno porci all'800 24 00 24. Cercheremo di dare qualche informazione in più perché stiamo parlando di di nuove tariffe che entrano a far parte della vita quotidiana di tutti noi dal 1° di luglio. Abbiamo cercato di riassumere le principali novità in questa scheda. Ti Dopo 6 mesi di prova, la tariffa bioraria è pronta al debutto ufficiale il 1 luglio. Saranno coinvolti tutti i consumatori domestici che non hanno aderito alle offerte del mercato libero e sono dotati dei nuovi contatori elettronici, cioè in grado di misurare i consumi nelle diverse fasce e che intendono continuare ad utilizzare i prezzi di riferimento fissati dall'autorità. In particolare, con le tariffe biorarie l'energia elettrica costerà di meno dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e il sabato, la domenica e le giornate festive, mentre i prezzi saranno più elevati dalle 8 alle 19 dei giorni feriali. Per ottenere un reale risparmio rispetto alle tariffe cosiddette monoorarie, è necessario dunque concentrare i propri consumi almeno per il 67% nella fascia oraria a minor costo, che prevede un prezzo decisamente inferiore rispetto alla fascia oraria di punta. Questo significa che bisognerà utilizzare lavatrici, lavastoviglie, computer e televisore dopo le 19, per evitare di dover pagare molto di più che con le tariffe monoorarie. La scelta dunque è estremamente personale e dipende dalle abitudini di ciascuno. Tuttavia, se la tariffa bioraria non dovesse dimostrarsi adeguata al proprio profilo di consumo energetico, è possibile scegliere una soluzione più adatta e conveniente sul libero mercato. Allora, una vera e propria svolta. Roberto Malaman, bisogna fare richiesta per l'applicazione della nuova tariffa bioraria? No, questa è proprio la significativa novità. Mentre fino a ieri chi voleva avere una tariffa bioraria la doveva chiedere, progressivamente dal 1 luglio in avanti la gran parte delle famiglie italiane avranno applicato i prezzi biorari. All'inizio la differenza di prezzo fra il consumo notturno, diciamo per semplificare, o anche festivo e quello giornaliero sarà minima, ma poi inizierà ad aumentare, così? Sì. Voi avete usato nella vostra scheda l'espressione prezzo decisamente inferiore o decisamente superiore. In realtà non è in arrivo una rivoluzione dei prezzi, però sono in arrivo dei piccoli cambiamenti. Nelle ore in cui l'energia elettrica costerà di meno, si pagherà circa il 5% in meno di quel che la si paga adesso. Nelle ore in cui costerà di più, però, si pagherà circa il 5% in più. È più che altro una rivoluzione anche dei modi di intendere il consumo dell'energia, no? Penso che molte famiglie che usano normalmente la lavatrice, l'aspirapolvere di giorno, saranno costrette a cambiare le loro abitudini. Guardi, costrette è una parola forte. Una famiglia media già oggi consuma 2/3 dell'energia nelle ore in cui l'energia elettrica costerà meno. Quindi una famiglia media non avrà un impatto significativo sulla bolletta da questi cambiamenti. In realtà voi avete introdotto tutto questo anche per avere insomma delle variazioni, delle risposte insomma per quanto riguarda la tutela ambientale, per quanto riguarda la differenziazione dei consumi. Mi sembra che ci sia anche questo scopo. Sì, guardi, noi abbiamo introdotto tutto questo perché effettivamente l'energia elettrica in certe ore del giorno costa di più e sono le ore cosiddette di punta, quando tutti consumiamo, famiglie, imprese, e quindi l'abbiamo introdotto per dare il segnale giusto agli italiani che in quel momento stanno consumando un bene che costa un po' di più, perché funzionano più centrali elettriche, perché le reti elettriche sono più stressate e più utilizzate, perché funzionano anche le centrali elettriche magari più vecchie e meno efficienti, e quindi stiamo cercando di dare il segnale giusto di prezzo in modo tale che con un po' più di attenzione si possa usare meglio l'intero sistema. Paolo Cazzaniga, esperto tariffe altro consumo. Voi ovviamente siete il fronte dei consumatori, no? Quindi vi piace o meno dal vostro punto di vista l'introduzione della tariffa bioraria? Beh, diciamo che nell'ottica del consumatore riteniamo che questo passaggio sia un cambiamento molto significativo, su cui abbiamo dei timori, delle perplessità legate al fatto più che altro che quello che sostanzialmente dovrà cambiare sono gli stili di vita delle famiglie, e tutto questo chiaramente non è immediato e non è facile. Aggiungo anche che se è vero che mediamente l'impatto della bioraria risulta poco significativo, in realtà facendo un discorso per categorie di famiglie si nota che ci sono delle differenze. Parliamo dei prezzi in questo caso. Parliamo del costo che le famiglie dovranno sopportare a seguito della differenziazione dei prezzi, perché chiaramente una famiglia che è poco in casa durante le ore di punta avrà dei guadagni, chiaramente. Laddove invece la famiglia è presente in casa sempre, o laddove ci sono degli elettrodomestici particolarmente energivori che restano accesi durante tutte le ore del giorno, chiaramente la bolletta salirà. Da questo punto di vista devo dire che bene ha fatto l'autorità a introdurre un periodo transitorio con una differenza di prezzi piuttosto ridotta, proprio per fare in modo che ci sia un'abitudine, un inizio d'abitudine a abituarsi a questa novità. Poi naturalmente vedremo cosa succederà quando la transizione finirà, perché lì si vedrà effettivamente una differenza di prezzi più marcata. Infatti l'autorità ha previsto un periodo transitorio di 18 mesi durante i quali lo scostamento tra i due prezzi, quello festivo e notturno e quello invece durante il giorno nei feriali, sarà intorno al 10%, 5%, Malaman. In questo all'inizio sarà del 10%? La differenza tra il prezzo più basso e il prezzo più alto sarà del 10%. Del 10%. Poi da gennaio 2012 invece inizierà la forbice ad aprirsi un po' di più. Sì, lo confermo. Per circa 18 mesi ci si abituerà a questi prezzi leggermente differenziati. Da gennaio 2012 la differenza di prezzo comincerà a essere più sensibile. E una volta passati alla bioradia si potrà poi cambiare e passare, non so, al libero mercato? Sì. Come si è potuto farlo fino ad oggi. La bioraria è stata chiamata bioraria per tutti, in realtà è una bioraria per quelle famiglie che non hanno ancora scelto un fornitore sul cosiddetto mercato libero, quindi che sono rimasti legati al fornitore tradizionale e il cui prezzo è fissato dall'autorità per l'energia elettrica e il gas. Rimane la possibilità, come c'era fino ad oggi, di cambiare fornitore, di scegliersi un'offerta con un prezzo che può essere monorario, che può essere energia rinnovabile, che può essere il cosiddetto tutto compreso che viene offerto in questo momento, che possono essere prezzi fissi, eccetera, eccetera. Questa possibilità rimarrà certamente. Bentornati a Selva Danaio. Oggi parliamo della cosiddetta tariffa bioraria per il consumo di energia elettrica. Lo facciamo con alcuni ospiti: Roberto Malaman, direttore generale dell'autorità energia elettrica e gas, e Paolo Cazzaniga, esperto tariffe di altro consumo. E lo facciamo soprattutto con il vostro aiuto che state già apportando chiamando all'800 24 00 24 oppure via sms al 349 238 6666. Walter ci scrive ad esempio un sms: io ho la bioraria da 2 anni, scrive, consumo il 75% della mia energia nella fascia 19-8 del mattino, non c'è differenza, circa 10 euro al massimo per quanto riguarda la bolletta di Walter per l'elettricità. Questa è la sua esperienza. Invece sentiamo l'esperienza di Gianluca da Firenze. Buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora, senti, io ho un negozio, che non è un'utenza familiare. Comunque, un paio di anni fa, sul retro di una bolletta che mi arrivò dell'Enel, c'era scritto che il garante dell'energia mi passava di obbligo nella tariffa bioraria. Le utenze come le mie venivano passate obbligatoriamente. Ecco, capisce bene che con un negozio la tariffa bioraria è un aumento mascherato. Chiuso alle 19:30 la sera, prendo le 9 la mattina. Cioè tutto il giorno lei consuma energia e di notte non la consuma mai praticamente. Questo che vuol dire? Sì. Sì. Con noi Gianluca, la faccio parlare direttamente con il direttore generale dell'autorità. Sì, buongiorno signor Gianluca. Buongiorno. Effettivamente i consumatori non domestici, quindi prima le grandi imprese, poi le imprese medie, poi anche gli artigiani negozianti, sono già passati da tempo normalmente a formule di prezzo differenziate giorno-notte o festivo-feriale. Quindi effettivamente oggi il mercato elettrico è dominato da questo tipo di prezzi, lo confermo. E purtroppo, diceva il nostro ascoltatore, per i negozi il consumo di energia elettrica è diurno, quindi... Sì, certamente, i negozi hanno un consumo forzato di giorno. Ora bisogna dire onestamente che i negozi stanno pagando il giusto prezzo dell'energia che consumano. Quello che può fare naturalmente un consumatore domestico o non domestico è sempre se cercare se ci sono offerte migliori sul mercato. Questo ecco, quindi in un mercato aperto guardarsi attorno, e come sempre la miglior difesa è quella di informarsi. Certo. Ecco. Ecco, le dico subito, direttore, che qui stanno arrivando valanghe di SMS che riguardano la difficoltà di chi abita in condominio ad accendere la lavatrice, ad esempio, di notte. Ma veramente molti SMS che magari portano avanti anche un problema piccolo, ma che potrebbe essere fonte di diatribe condominiali. Abbiamo anche Gianfranco dalla provincia di Monza che voleva proprio parlarci di questo, mi sembra. Gianfranco? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, mi pare di capire che lei, come altri che ci scrivono via SMS, ha un problema ad accendere la lavatrice di notte. Sì, in effetti noi abitando in condominio non è che possiamo accendere la lavatrice di notte. Poi c'è, di solito la sera si carica la lavastoviglie per lavare i piatti, quindi ci toccherebbe fare il turno. Fino alle 10 finisce la lavastoviglie e poi attacca la lavatrice. Avendo comunque i 3 kW non si può accendere tutto assieme e quindi secondo me questa è una cosa sbagliata assolutamente. Dovrebbero diminuirla e basta, e risolvere il problema di tutti. Oppure mi fa lavorare, dovrebbe, allora a questo punto dovrebbe far andare la lavatrice di domenica. Domenica è l'unico giorno che si assieme si può uscire, non si può fare neanche quello. Insomma, la lavatrice. Grazie Gianfranco per la sua esperienza. Quella, tra l'altro, che il problema di cui parlava Gianfranco, che è quella di mettere, di accendere contemporaneamente diversi apparecchi, è un problema che anche le associazioni si stanno ponendo, ossia quello dell'innalzamento della potenza elettrica proprio. Cazzaniga. Sì, effettivamente. L'esperienza di altro consumo da questo punto di vista è come quella delle altre associazioni. I nostri soci ci domandano come faremo a far partire insieme la lavastoviglie e la lavatrice in uno spazio comunque ristretto, nel senso che se il regolamento condominiale mi dice che alle 10 io non posso più far andare la lavatrice, vuol dire che se arrivo a casa alle 7 in 3 ore devo far andare la lavatrice, la lavastoviglie e magari il forno per cucinare. Quindi effettivamente questo è un problema che c'è. Durante il mese di novembre dell'anno scorso effettivamente l'autorità per l'energia aveva promosso una consultazione per cercare di risolvere questo problema, cercando di aumentare la potenza disponibile, cioè fare in modo che il contatore non salti immediatamente nel momento in cui c'è un sovraccarico. Però poi per il momento non abbiamo visto provvedimenti in tal senso, cioè questa proposta, questa consultazione non è diventata qualcosa di concreto, un ordine da dare ai distributori, cioè coloro che sono responsabili della gestione della lettura dei contatori, affinché provvedano per riprogrammare i contatori in questo senso. Quindi, insomma, i consumatori, i nostri soci, si attendono qualcosa da questo punto di vista. Ecco. Roberto Malaman, quella della potenza disponibile è in effetti uno dei problemi, no, che ciascuno di noi si pone, perché accendere contemporaneamente più elettrodomestici può far saltare, come si dice, il contatore. Sì, intanto volevo confermare, diciamo, le preoccupazioni del signor Gianfranco sono fondate. Effettivamente spostare i consumi non nella notte, come ogni tanto si dice, ma la sera o il sabato e la domenica può comportare qualche problema di contemporaneità. Sì, è un problema molto sentito, perché continuano ad arrivare SMS da ascoltatori preoccupati di innescare diatribe condominiali. È vero, quindi nessuno, non invitiamo nessuno a fare la lavatrice dopo le 23 o in piena notte. Dopo le 7 di sera sì, se si vuole risparmiare qualcosa, o il sabato e la domenica sì, se possibile naturalmente. Sulla contemporaneità, già oggi la gran parte degli italiani hanno avuto una riprogrammazione dei loro contatori qualche anno or sono, sulla base di un accordo importante sottoscritto con le associazioni dei consumatori e da noi favorito, e quindi già oggi si possono consumare per la gran parte degli italiani, si possono impegnare 4 kW anziché i 3 nominali del contatore, quindi c'è già oggi un po' di margine. Stiamo effettivamente ragionando per vedere se è possibile alzarlo ulteriormente. Ci chiede Daniele da Ferrara via SMS, ma se voglio rimanere con la tariffa attuale lo può fare? Dunque, finora. Se vuole rimanere con la tariffa attuale, no. Da luglio in avanti progressivamente gli italiani saranno portati sulla nuova tariffa bioraria, salvo se si sceglie un'offerta sul mercato libero. Quindi si deve informare e capire quali sono le proposte quindi, ci sono. Se non fa nulla il nostro consumatore finirà automaticamente in una tariffa bioraria, però può scegliere. Che è quello che dicevamo all'inizio. Daniele da Reggio Emilia, buongiorno. Sì, buongiorno. Complimenti per la trasmissione. Intanto, io ho acquistato un appartamento l'anno scorso e ho iniziato ad abitarci quest'anno in aprile, quindi ho tirato le utenze più o meno in quel mese e mi sono rivolto all'Enel, per quindi al fornitore nazionale, diciamo, per l'attivazione dell'energia. Volevo sapere se anche a me ho già il contatore elettronico per la fascia che è abile per la questione legata alla fascia bioraria. Volevo sapere se anch'io accederò alle tariffe biorarie. Ah già, il contatore elettronico. Paolo Cazzaniga. Beh, in realtà questa cosa, appunto, il passaggio alla bioraria succederà se, oltre ad avere il contatore elettronico, il suo contatore è anche abilitato alla telegestione. Cos'è la telegestione? È appunto la possibilità di un contatore elettronico di essere letto in remoto, in modo tale che i dati rilevati nelle diverse fasce orarie vengano poi utilizzati per la fatturazione. Proprio per questo, in realtà, a partire dal mese di luglio, prima 4 milioni, poi successivamente a scaglioni si aumenterà il numero di clienti domestici che attualmente non sono nel mercato libero, quindi condizioni economiche stabilite dall'autorità. Progressivamente il numero aumenterà, perché progressivamente aumenterà il numero di contatori installati negli appartamenti delle famiglie, che saranno abilitati alla telegestione, quindi a essere eletti in remoto. In realtà questo ovviamente ha degli aspetti problematici, no? questa transizione lunga in cui piano piano aumenta il numero di utenze che vengono coinvolte, perché ovviamente si dilata nel tempo il passaggio. Molti soci di altro consumo, molti consumatori in generale, per esempio, si pongono questa domanda: ma io come faccio a sapere se il mio contatore è già abilitato alla telegestione, se il mio contatore è telegestito oppure no? Questa cosa è sicuramente una domanda delle più frequenti, insomma. Cerchiamo di spiegare anche che cosa sono le biorarie a richiesta. Certo, la bioraria richiesta è sostanzialmente un'opzione in più che l'autorità per l'energia ha voluto offrire ai consumatori. Naturalmente la parola a richiesta già dice tutto, mentre la bioraria cosiddetta transitoria, cioè quella che partirà dal 1 luglio, è appunto una bioraria in cui non si sceglie, si viene passati in bioraria. La bioraria richiesta è ancora uno strumento facoltativo, insomma è il consumatore che deve decidere se la vuole attivare o no. Per chi è ideale la bioraria richiesta? La bioraria richiesta è ideale per chi ha già un consumo particolarmente spostato nelle ore in cui l'energia costa meno, quindi dopo le 19 ore feriali e sabato e la domenica. È praticamente la bioraria che c'è adesso. Sappiamo che attualmente, no, fino al 30 giugno, la bioraria non è obbligatoria, la chiede chi sa di avere un consumo già abbastanza orientato nelle fasce off peak. Quindi questa bioraria continuerà a vivere, la si chiamerà bioraria richiesta, e appunto naturalmente chi ha un consumo già orientato nelle fasce off peak guadagna di più da una bioraria transitoria, certamente. Bentornati a Salvadanaio, oggi parliamo di consumi elettrici, lo facciamo grazie alla presenza di alcuni ospiti che sono qui con noi per spiegare cosa accadrà dal 1 luglio, quando si accederà alla tariffa bioraria. Maria da Roma, buongiorno, benvenuta. Grazie, buongiorno a tutti quanti. Io volevo semplicemente dire una cosa: io ho una casa che è della mia vecchietta e ci vado esclusivamente di giorno. Capita, un paio di volte e uno fa la lavatrice. Cioè lei non è una casa... Non la potrei fare di notte. Lei è una casa dove va solo di giorno. Esattamente. E dove vivo, e ci sto dalla mattina alla sera, la lavatrice la faccio di giorno, perché la mia lavatrice, quando fa il ciclo... Quindi ha bisogno di usare... Fa un fischio che non finisce mai, sveglierei tutto il palazzo. Ho capito. Grazie Maria, grazie. Roberto Malaman. Sì, certamente bisogna fare il possibile in questi casi, o per accendere la lavatrice alle 7 di sera, se possibile, oppure andarsi a cercare un prezzo dell'energia non biorario, come dicevamo prima. Quindi anche in questo caso informarsi, prima cosa, se ci sono delle proposte, certo, sul mercato, certo, che sono più vantaggiose, certo, per questo profilo. Sì. Posso aggiungere un'informazione, certo, alle utili informazioni che ha dato prima Cazzaniga di altro consumo? Certo. Chi andrà in tariffa bioraria, è bene aggiungere ancora un'informazione. Chi ha il contatore telegestito, chi ha il contatore riprogrammato, è vero, ma aggiungiamo solo coloro che hanno queste condizioni che riceveranno, le abbiamo resi obbligatori, 3 fogli informativi in 3 successive bollette che spiegano che si sta entrando nella tariffa bioraria. Quindi se avete questa informazione in bolletta entrerete dal 1 luglio in tariffa bioraria. Certamente. Ha fatto bene a precisarlo. Massimo dalla provincia di Lecce. Sì, buongiorno. Sì. Pronto, buongiorno. Sì, ci dica. Senta, io la domanda che vorrei fare è semplicissima. Io ho un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica per uso personale e vorrei sapere se posso anch'io accedere alla tariffa bioraria. Grazie Massimo. Roberto Malaman. Dunque, non riesco a dare una risposta certa. In linea di massima la tariffa bioraria si applica comunque perché il signore, se è in maggior tutela, ha la tariffa, cioè cede la sua elettricità alle linee elettriche e consuma alla tariffa amministrata. Però siccome questa informazione potrebbe non essere completa, do il numero verde del nostro sportello per il consumatore. Certo. Per eventuali verifiche e per ogni altra informazione che gli ascoltatori volessero avere su queste biorarie. Il numero verde è 800 16 6654. Ecco, benissimo, così anche gli altri ascoltatori che non riescono a mettersi in contatto oggi con noi potranno chiamare. Ambrogio da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Dica, siamo in chiusura, le chiedo di essere veloce. Molto brevi, è vero. Grazie. Tutto quello che dicono, però è solo purtroppo molto teorico, perché io ho quella persona sopra di me che alla sera quando accende o la lavatrice o più che altro la lavatrice, non tanto la lavastoviglie, che... Ambrogio, lei vive in condominio, quindi? Certo. Il suo problema rientra in quello? Il 90% o il 99% delle persone, sì, che vivono in una città. Certo, no, dicevo il suo problema, quindi rientra in quello di cui parlavamo prima, dei rumori e quindi delle difficoltà di accendere, certo, gli elettrodomestici la sera. Perché quella, la persona dice, ah ma io devo fare così, ho capito, non si può neanche obbligarla, diciamo, a sostituire l'elettrodomestico, anche perché più volte non è un problema di elettrodomestico ma come è caricato, come o dove, e questa va in giro per la stanza la cosa. Cioè, non mi sembra, è vero, sono buone teorie ma che rimangono solo teorie. Grazie Ambrogio. Paolo Cazzaniga, ho l'impressione che i costruttori di elettrodomestici inizieranno a pensare a lavatrici meno rumorose. Esattamente. Ma diciamo che appunto le problematiche... È un problema che viene sollevato molto dai consumatori, sì, avete anche voi questa impressione? Sì, abbiamo anche noi questa impressione, chiaramente. Come dicevo prima, il vero impatto grosso sulla bioraria è il comportamento, insomma, qui bisogna tenere presente che veramente cambia un modo di usare l'energia elettrica per le famiglie. Poi chiaramente... ribadiamo il fatto che esiste il mercato libero, per la nostra esperienza diciamo che effettivamente la convenienza economica c'è, però noi diciamo anche di procedere con cautela, con attenzione, cercando di informarsi sempre, perché il sistema è complesso, è molto complesso, bisogna capire bene che cosa propongono, il tipo di tariffa, se è la tariffa adatta per te oppure no, che cosa si vuole, anche sulla base di come si consuma. E poi attenzione naturalmente a leggere bene i contratti che vengono proposti. Paolo Malaman, sottolineiamo continuamente, l'ha fatto anche lei, l'ha fatto anche Cazzaniga, che è necessario informarsi. Tra l'altro Altro Consumo, lo dico, c'è anche una piattaforma online controcorrente nella quale si può stimare il proprio consumo medio di ogni elettrodomestico e quindi anche della propria casa. Malaman, ovviamente ci sarà un piccolo risparmio all'inizio, mi pare di capire però che le categorie più avvantaggiate saranno quelle delle famiglie mononucleari oppure single, quindi o coppie che stanno molto fuori casa. Invece quello che i consumatori spesso fanno notare è che per persone che stanno molto in casa, come pensionati, casalinghe, anche famiglie con collaboratori domestici che usano gli elettrodomestici di giorno, il risparmio non sarà molto, anzi si rischierà di spendere un qualcosina di più? È difficile, guardi, dirlo in generale, perché le famiglie che stanno molto fuori casa magari sono anche via per il weekend, mentre gli anziani che sono in casa tutto il giorno magari possono anche tranquillamente fare una lavatrice il sabato. Quindi è veramente difficile dirlo chi ci guadagnerà e chi pagherà un po' di più. Io posso solo dire che la differenza sulle bollette sarà per il primo anno e mezzo molto limitata. Bassa, sì, molto limitata. Una famiglia, diciamo, che spende 400 euro all'anno complessivamente di bollette, una famiglia media, potrà, se si comporterà bene coi consumi, spendere 10-12 euro in meno, però rischierà di spendere 10-12 euro in più se sbaglierà gli orari dei suoi consumi. E quindi un risparmio o un aumento limitato. Velocemente abbiamo un'ultima telefonata, Massimo dalla provincia di Roma, buongiorno, le chiedo appunto di essere sintetico. Sì, buongiorno, io ho praticamente il contatore, quello elettronico, e della tariffa bioraria ne conosco molto bene perché sono stato in Germania 6 anni e loro dagli anni 70 che hanno la doppia tariffa, però avevano un contatore semplice da capire, cioè con il vecchio contatore con due numeri ben distinti, quello di sopra era la tariffa alta, quello di sotto era la tariffa più bassa. Nel nostro contatore, quello elettronico, come si fa a capire? Perché da questo punto di vista, e poi per le persone che hanno il problema della notte, io proporrei i timer, io andavo avanti con i timer, organizzavo il timer, poi alle 3 del mattino partiva la lavatrice e tutto il resto, insomma. Grazie. Comunque. Massimo, grazie. Grazie anche ai nostri ospiti, faccio rispondere brevemente Malaman. I contatori in servizio consentono di guardare e di sapere quanto si sta consumando nelle ore a prezzo basso e nelle ore a prezzo più alto. Non posso dire come, perché ci sono diversi modelli di contatori in giro, quindi darei informazioni poco precise. Ecco. Aggiungiamo anche, se posso, che nelle bollette prima dell'introduzione della bioraria abbiamo fatto introdurre una tabella che comunque riassume la percentuale di energia che si sta consumando nelle ore piene e quella in ore vuote, così i consumatori sapranno già qual è attualmente la loro ripartizione di consumi. Quindi controllate. E comunque in Germania ce l'avevano già negli anni 70, abbiamo scoperto da Massimo. Io ringrazio Paolo Cazzaniga, esperto tariffe di altro consumo, e Roberto Malaman, direttore generale dell'Autorità dell'Energia Elettrica e Gas, per essere stati quest'oggi con noi. Grazie anche in regia a Fabio Cantadori, Gaia Romani in redazione per Salva Danaio, Alessandro Longoni per Soldi e Dintorni. A tutti voi grazie per l'ascolto, da Valentina Furlanetto è tutto, ciao.